fatto un corso io alla Fiat di Sassari, allora esistevano i frigoriferi Fiat, la ditta mi mandava tutte le sere a fare questo corso, che c'era uno lì che mi insegnava cosa si doveva fare nei frigoriferi. È tutto diverso oggi, gli elettrodomestici sono completamente differenti da come erano 50 anni fa o 60 anni fa, per cui è tutta un'altra storia. Certo, stavo chiamando. Dimmi Luca. Allora io ti dico una cosa, io non per vantarmi, ma lavoravo con mio zio, che lui lavorava per la società, era società con la Costan, non so se ti ho reso l'idea. Lo conosco, sicuramente faceva le frigorifere e roba del genere, la Costan. Bravo, bravo. Avevamo tutto da Citamercato, piacevamo celle frigo, manutenzione, e lo sai, no? Costan di Orani, che era mio zio, Orani Nicola, Orani Antonello, erano mio zio, capito? Sicché noi, pensa che avevamo fatto anche il pollaio, senza fare nomi, di qualcuno che gli erano morte 3.000 e passa galline, perché gli si era fermato l'impianto di areazione. Sicché sai di chi sto parlando? Gappa, gappa, gappa di positivo. E noi facevamo il celle frigo, capito? Stava lì, andavamo nei paesi, anche lì in Matattui a piazzare le celle frigo. E lo sai benissimo cosa, non è un lavoro da niente. Va a piazzare le celle, i motori è un lavoraccio, già lo so Luca. Io lavoravo con mio zio, mi chiamava quando c'era a piazzare le celle frigo, poi loro piazzavano i motori e tutta l'ambarada. E si chiama, e questo qua ci aveva chiamato, questo famoso di Sassari comunque, quando siamo arrivati lì tutte le galline morte perché gli si era fermato l'impianto di areazione. Oh Iuia! Ho capito qua, questo è Iuia. Purtroppo quando si bloccano quelle celle lì è un casino. Perché chi è che ha l'impianto più grande per le galline o vaiole, no? Ma qual è? Quello di San Camillo? No. Mario? Lo conosco benissimo. Io le facevo quando lui lavorava dipendente, però allora era, no? Io le facevo... Mario d'oro! Chiamate così. Erano dei telai, non a lui, alla ditta direttamente. E allora io avevo già iniziato a lavorare per conto mio, li facevo i telai per asciugare la pasta, no? Dove lavorava lui, che poi vendevano anche le uova. Ma gli facevo 300 telai alla volta, mi anche di più. Per cui, mi ricordo, allora ogni telaio costava 4.800 lire l'uno. Me ne facevo anche 300 alla volta, me ne facevo, erano dei telai che si incastravano l'uno sull'altro e c'era una rete, no? Poi questo telaio era bassissimo, era stato, non lo so, alto ogni telaio 4 cm, 5 cm, e c'era la rete, dentro questo telaio loro mettevano la pasta per asciugare e poi facevo il castello, tutti i telai uno sull'altro e la pasta non si toccava, perché c'era lo spazio, capito? Non ricordo, e poi siamo amici da sempre, dai. Mario d'oro mi pare che sia. L'uovo d'oro, l'uovo d'oro. Ho capito quale gappa gappa. Davide Lugariello, così è Luca. Sì, che sto dicendo che quando siamo andati lì, si erano fermati gli impianti di ventilazione. E così che, siccome lo sai benissimo, le galline sono tutte chiuse lì, no? Quando si fermano le ventole, muoiono perché non c'è più aria, capito? Certo, che è così. Io lo conosco da sempre, da quando eravamo ragazzi, ci conosciamo con Mario, ripeto, tantissimo. Prima ci vedevamo tutti i giorni, perché io frequentavo anche la zona lì di Corso Trinità, dove c'era una volta la palestra della società Alba, e lui era lì, in Corso Trinità, che lavorava, no? E dunque, ma ma ancora prima già ci conoscevamo da tantissimi anni, prima che lui iniziasse a fare l'autista, perché lui faceva l'autista lì, e poi ha preso anche lui la strada dell'imprenditore e ha fatto bene, e ancora oggi fa quel lavoro lì, pensa un po'. Addirittura mio fratello aveva fatto anche una canzone che citava anche il suo nome, era la canzone Amici Emittenti, e fra questi citava anche il suo nome nella canzone stessa, e dunque in quegli anni lì è stata anche una buona pubblicità per lui. Vabbè, riprendi lui. Sì, ci ho conosciuto. Così che, no, ma allora, quando facevo quel lavoro lì, la parte che mi ha più colpito, e che non dico il paese dove siamo andati a montare, perché c'è la Frigo, è stato che gli agnelli purtroppo li appendevano per la zampa, no? Come si fa, e poi passava uno col coltello e nel collo e li pungeva. Ecco, quello è quando siamo andati a fare quel lavoro lì, che mi ha più fatto male, perché vedevi questi qua con tantissima destrezza, tranquilli, andavano e pungevano questi animali che continuavano a belare. Lì mi ha fatto male, vedi? Esatto, stavo dicendo, Luca, voglio provare un PMR, a vedere se mi ascolti. Accendi.